Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Abbiamo sentito dagli ultimi giornali radio, gli ultimi GR24, come la situazione in India sia ancora drammatica, le operazioni della polizia, l'operazione dell'esercito contro i terroristi sono ancora in corso, anche le dimensioni di questo forte, di questo grave attentato non sono ancora note, non sono ancora ricostruibili fino in fondo, ma anche e soprattutto da dove viene, chi sono questi terroristi non si sa. Parliamo di questo, così come parliamo di politica estera, di politica internazionale. Nazionale oggi, dietro la notizia, lo facciamo con l'ambasciatore Boris Biancheri. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno. Ambasciatore Boris Biancheri è presidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto tra l'altro una medaglia da parte del Comune di Milano. L'ISPI ha sede a Milano, a Palazzo Clerici. E allora, prima di entrare nei temi della politica internazionale, ambasciatore, magari per i nostri ascoltatori riassumiamo che cos'è l'ISPI adesso e che cosa sta facendo. L'ISPI è il più antico istituto di studi di politica internazionale che ci sia in Italia, fa della ricerca in materia internazionale, fa della formazione su temi di carattere internazionale. Proprio pochi giorni fa a Pavia c'è stata una grande occasione in cui l'ISPI cerca di spiegare ai giovani come sia organizzata la vita internazionale, quali opportunità di lavoro essa offra sia nella carriera diplomatica sia nelle organizzazioni internazionali, e poi fa anche molta specializzazione per le aziende, fa delle pubblicazioni, insomma è direi uno dei grandi istituti di studi di politica estera che ci siano in Europa. Ecco, istituti di politica estera in un momento in cui la politica estera è ormai un elemento dominante, la globalizzazione è una realtà sotto il profilo economico, e purtroppo anche la globalizzazione del terrorismo porta alla ribalta delle incognite sul futuro di tutti noi. Io ricordo gli ascoltatori, numero verde 800 24 00 24, e con Boris Biancheri vorrei proprio partire, allora, guardando un po' al di là delle nostre frontiere, ma guardando un po' al mondo, come giudica questi avvenimenti in India, giunti solo in parte a sorpresa. L'India era già un terreno caldo per appunto gli attentati, peraltro limitati, che c'erano stati negli ultimi anni, però un attacco di questa portata forse cambia un po' anche le prospettive della stessa politica indiana. Ambasciatore Biancheri. L'India effettivamente da questo punto di vista è contraddittoria, nel senso che per moltissimi e per tutti noi è anche il paese della spiritualità, della, se posso dire, della meditazione e del silenzio, ma dall'altro lato ha rivelato varie volte nel corso della sua lunghissima storia anche dei conflitti, delle contraddizioni e anche infiniti episodi sanguinosi. Certo, questo di Mumbai è di una vastità, di una crudeltà e di una spettacolarità che nessuno si sarebbe aspettato. Siamo nel campo delle congetture, mentre la cosa è ancora in corso, ci si incomincia a chiedere chi e perché. E direi che le possibili radici di un fatto spettacolare e drammatico di questo genere sono, inevitabilmente si pensa a due possibilità. L'una, quella di carattere, se così si può dire, religioso, e cioè diciamo il radicalismo islamico, che d'altronde non è nuovo anche come ampiezza a dei gesti di questo genere, basti pensare all'11 settembre. L'altra eventualità alla quale si viene da pensare evidentemente è il radicalismo politico. L'India ha molte aree dove prevalgono ancora formazioni estremamente radicali, politiche, maoiste, se così si può dire. L'aspetto sacrificale che questo gesto inevitabilmente comporta, perché poi gli autori sono destinati di solito alla morte, come è stato in tanti altri episodi di questo genere, fa piuttosto pensare a una radice religiosa che a una radice politica, perché l'autore di un gesto, se ispirato religiosamente, ha la sua ricompensa in un altro mondo, mentre se è un gesto politico di solito tende ad avere la sua ricompensa in questo mondo. Ma, ripeto, siamo per ora ancora nel campo delle congetture. Rivela comunque un stato crescente di violenza e di tensione che si propaga per tante vie nel mondo di oggi e credo che ne costituisca in questo momento una drammatica e dolorosa caratteristica. In fondo siamo ricaduti in pieno in una realtà che pensavamo di aver superato dopo l'11 settembre, anche se faticosamente, in una realtà di un terrorismo che all'improvviso appunto giunge a colpire, un terrorismo che prepara queste azioni con una appunto con mesi e mesi di studi, di collegamenti, di preparazioni, sono operazioni veramente di stampo militare molto avanzato. Questo propone anche il tema della nuova America, l'America di Obama, le grandi speranze che ha creato appunto questo cambiamento negli Stati Uniti, speranze anche se non da tutti condivise ovviamente, ma ecco, il terrorismo resta comunque uno dei temi di fondo della politica estera americana e resterà necessariamente uno dei temi di fondo di questa politica estera. Ambasciatore Biancheri. Non c'è ombra di dubbio, il terrorismo è un fatto, è un modo di agire, le ispirazioni, ripeto, adesso negli ultimi anni sono state prevalentemente di carattere di ispirazione religiosa e tutto sommato viene da pensare che anche questo fatto indiano lo sia. La scelta di quello che è un albergo, direi, simbolo e al contempo simbolo della ricchezza, perché stiamo parlando degli alberghi di lusso in una grande capitale dove c'è estrema povertà ma che c'è anche grande ricchezza, e contemporaneamente può essere un attacco al capitale e un attacco, diciamo, al modo di essere occidentale, quindi le due radici che possono alimentare e che forse in qualche caso si sovrappongono l'una con l'altra. Grazie. Se posso aggiungere una parola, prego. La globalizzazione estende il male, lo fa circolare e lo rende così presente a tutti noi, e dall'altro lato, se posso dire, estende anche le speranze. L'elezione di Obama è stato, direi, un fatto universale, non americano, come si è guardata a questa elezione. Quindi le speranze diventano globali così come il male diventa globale in questo momento. Stiamo parlando con l'ambasciatore Boris Biancheri, presidente dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, della situazione mondiale, ovviamente con in primo piano l'India, in primo piano anche l'America, l'America di Obama. Ambasciatore, stavamo parlando appunto delle speranze di Obama. Quali secondo lei saranno i più importanti cambiamenti, le priorità del nuovo presidente americano quando si insedierà a metà gennaio? Ma credo che Obama affronterà prioritariamente tutti i problemi di politica interna e cioè e anche internazionale, ma soprattutto a partire dalla crisi in atto e nelle sue varie ripercussioni. Questo è il tema che in questo momento domina le preoccupazioni di tutti: come si potrà riuscire a superare questa crisi, quali strumenti internazionali si possono adottare. Abbiamo visto già questo G20 che si è tenuto ancora alla fine dell'era Bush, nella quale ancora siamo, quindi Obama, se posso dire, ha fatto le sue scelte, ha scelto i suoi grandi collaboratori, non agisce ancora perché fino al 20 di gennaio è ancora il vecchio presidente che domina la scena. Probabilmente sarà ancora Bush che firmerà l'accordo con il governo iracheno per il rimpatrio delle truppe e sarà soltanto fra qualche settimana che Obama prenderà il bastone del comando, ma stiamo vedendo che prepara anche la sua azione in politica internazionale. Per ora lo fa indirettamente, la scelta dei collaboratori dice qualche cosa, ha scelto persone di grande sperimentazione, ha scelto Hillary Clinton, quindi una continuità con la politica di Clinton, del presidente di 8 anni fa, che era, direi, una politica poco ideologica, era una politica molto pragmatica. Non so se avremo Hillary Clinton seguire passo passo le tracce del marito, ma direi che è una persona razionale. Quindi io mi aspetterei in politica estera una certa prudenza da parte di Obama, forse da questo punto di vista molte congetture, molte riflessioni sono state fatte, che cambi drammaticamente la scena da un giorno all'altro, ecco, io sarei prudente su questo. Ecco, credo che sia saggio anche andare con una certa prudenza. Per ora ne vediamo le mosse più dalle parole che dai fatti, vediamo che su quello che è uno dei grandi temi che ci possono interessare, che sono i rapporti con la Russia, una maggiore moderazione di quella che non era la posizione di Bush, ma verbalmente non siamo neanche a una resa degli Stati Uniti rispetto alle richieste di Mosca, una tendenza al multilateralismo piuttosto che all'andar da solo, ma anche questo bisogna vedere, perché non dobbiamo pensare che radicalmente cambi la politica americana, che avrà prioritariamente sempre al centro gli interessi degli Stati Uniti d'America, che però sono in parte gli interessi di tutto il mondo. Certo, quindi il realismo in primo piano, e vedremo come ci sarà la continuità con Clinton. C'è stata in fondo una doppia presidenza Bush, Bush padre, Bush figlio, adesso dopo la parentesi di Bush figlio torna un altro Clinton, non al potere, non alla Casa Bianca, ma in un posto comunque importante come la segreteria di Stato. Ascolterei un ascoltatore, Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo porre una domanda, innanzitutto complimenti e saluto anche il presidente dell'ISPI. Io volevo sapere, questo improvviso disequilibrio che sta colpendo in modo critico l'India e comunque è davanti agli occhi di tutti, quanto è collegato a un disequilibrio che c'è con il vicino paese del Pakistan e nello specifico rispetto alla, diciamo, al declino, alla sparizione della figura di Musharraf dalla politica esplicita, e quanto è, diciamo, figlio della situazione critica che aveva portato alla morte dell'ex presidente, cioè della presidente Bhutto? Questa era la mia domanda. Grazie mille. Quindi il Pakistan, qual è l'influenza del Pakistan nelle attuali vicende indiane? Si è detto che i terroristi venivano dal Pakistan. Ambasciatore Biancheri. Ma naturalmente fra India e Pakistan c'è, direi, una contrapposizione di fondo. La nascita stessa del Pakistan rispetto all'India è stata conflittuale, così come lo è stata la nascita del Bangladesh dalla parte opposta, cioè all'estremo Oriente, due aree musulmane rispetto all'area centrale indiana, che musulmana non è. Quindi c'è una contrapposizione di fondo che poi si è protratta anche in una contrapposizione politica con atti militari e con una zona fra i due paesi che continua a essere contesa. Il Kashmir è rivendicato dall'uno e dall'altro nella sua integrità, mentre di fatto è diviso, ma insomma in grande parte realmente ancora pakistano. Quindi c'è una base di conflittualità. Su questa base di conflittualità gli eventi agiscono diversamente. Nel corso della storia tradizionalmente c'è una contrapposizione nella quale la Cina è spesso intervenuta a favore dell'uno o dell'altro, ma di norma piuttosto a favore del Pakistan, con il suo peso politico, non con delle armi militari, ma con il suo peso politico. Se questa contrapposizione, che tuttora sussiste e che ha fatto sì che questi due grandi paesi siano possessori di armi atomiche, in quanto l'uno se ne è dotato e l'altro se ne è dotato per non essere da meno dell'altro, così da stabilire un certo equilibrio, c'è una anomalia, se vogliamo, nella scena mondiale, perché troviamo due paesi che in realtà non hanno necessità di una sicurezza nei confronti dell'esterno, non risalgono ai padri fondatori dell'arma atomica come altri paesi, come gli Stati Uniti in primissimo luogo, e che però sono dotati di armi atomiche. Costituisce evidentemente un notevole pericolo, anche nella misura in cui sono paesi politicamente instabili. Io non credo che in questo specifico evento ci sia una connessione politica a livello statuale, però ci può essere, soprattutto se gli attentati che abbiamo avuto a Mumbai hanno una origine di carattere religioso, ci potrebbe benissimo essere un legame organizzativo. Questo francamente non mi sentirei di escluderlo, ma mi sembrerebbe difficile che in questo momento il governo pakistano, che ha problemi gravi e ripeto che è in fase di inizio di consolidamento di un nuovo regime, si avventuri in delle politiche ostili nei confronti del grande vicino orientale. La ringrazio, ambasciatore. Purtroppo il tempo è volato, le considerazioni da fare su questa vicenda sarebbero molte, le congetture altrettante. Indubbiamente la realtà è complessa, come diceva giustamente l'ambasciatore Biancheri, è difficile pensare che il governo in quanto tale possa essere intervenuto, però indubbiamente il Pakistan ha offerto accoglienza a terroristi in passato, può avere interesse a forse chiudere un occhio di fronte a un terrorismo che infastidisca i vicini come l'India, ma queste sono considerazioni appunto potenziali. Ci fermiamo purtroppo qui, io ringrazio l'ambasciatore Boris Biancheri, presidente dell'Istituto di Studi Politica Internazionale, di essere stato con noi, ringrazio Carmelo Larricella in regia, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Dietro la Notizia è per lunedì.